che costa, ma magari l'Opel costa 4 volte di più. No, io sono originario di un cavo, sono una scritta Opel, ma sono fatti da qualche casa. No, c'è un'imitazione, non lo so, non lo so. Comunque, è un beccato, non l'hanno sempre trattato bene, la verità. Non lo so, non lo so. Io, a me mi sembra di aver pagato un bel quei tappettini. Anni. Eia, ciao tu. Ciao Giuseppe. Giuseppe. Ehi. Bene, a tu. Ciao. Buonasera. Beh, buon morì. Gianni. Come mi senti con questo? Bene. L'altro è andato a fanculo. Quale? Di casa. In che senso fa? Non si è rovinato. Si è distaccato il filo della corrente. Poi, come l'ho distaccato, come si è distaccato, è spento, schiaccia la portata e cazzo è a fare il numero. Boh, non ho capito da cazzo c'è. In corto. Deve essere, boh. Ma l'ha riattaccato il filo che si è staccato. L'ha riattaccato il filo che si è staccato. Allora, c'è il filo della corrente, uno si è distaccato, no? Quello che dà positivo il corso della corrente. Poi, una volta che è distaccato, che è proprio fuori, schiacci la portante e esce il numero, il canale. Vabbè, bisogna vederlo, magari una cazzata. Che canale esce? Canale 9? Non faccio sul 5 adesso. Sto che apparecchiore? Sì, quello della macchina, c'ho modulato la macchina. Sei a casa? Sì. Sotto casa sono. Andiamo va bene, questo è fucchettino, ma quell'altro non lo usi, quello che ti ho detto, quello che mi stavi dicendo. Ho telefonato a quella persona, mi ha detto, dice, il telefono è venerdì, ho detto, ok, io non funziona un cazzo, sempre sprecare il telefonate, questi soldi a me mi servono, sono solo, non sono ancora capito. Guarda, adesso mi si è rotta anche la macchina, gli ho detto, mi si è rotto cazzo il semiace, sono bloccato, come cazzo faccio? Ma a meno 300 euro voglio, cazzo, non ho capito. Cazzo, già, ho aspettato cazzo più di un mese e mezzo, e che cazzo, e adesso faccio di tutto per procurarli, domani o dopo faccio il Torino, vedo un po' se riesco a procurarmi anche un po' di soldi lì, perché ho le case, lo sai che sono in affitto, che ha dato in affitto, allora, faccio di tutto, io voglio i soldi, a me non me ne frega niente. Io sono un male pagatore, basta, ho avvocato, l'avvocato del caso adesso. Non lo so, tu domani sei a lavoro, non ti avrei chiesto il saldatore, l'avrei saldato io quel filo. No, per te cosa te lo saldo io, però andare in giro, cosa mia, non perché non mi fidi, ma mi hanno spacciato troppo di roba, quindi se vuoi venire a casa, vengo, te lo saldo io, e basta, tutto lì, dove devi saldare? Sarebbe il filo che dà la corrente da quello di casa, capito? Ma tu sei a che ora sei libero? E quando esco dalla zona, vabbè, ciao a pranzo, a pranzo rientri, sì. Ora mi riposo dopo pranzo, Giuseppe, no? Dopo pranzo non ho giocato, devo andare. Mi riposo perché sono stanco. Quando magari rientro, detto, me lo dici, passi, comunque ce lo faccio. Vabbè, se mi alzo presto, se no lo porto, se non sta lavorando lo porto da Alessio oppure da Coso. Oh, mi ha detto me lo fa anche Coso, Gio Maria. E poi fallo, io sto dicendo, sono disponibile però a quello voglia di assillarvi, di attrarvi sul lavoro, che sono stanco morto. Vabbè, ok, vabbè, dai. Vabbè, ti lascio andare a dormire, che sei stanco, vabbè. Ci sentiamo domani, dai. Saldatore. No, io non sono andato a dormire adesso, sono già con il catto, ma sto andando a dormire. Ma facciamo che ti dovevi addormentare. No, ancora no, non tu. Gatto, non è saldatore, Giuseppe. No, negativo. Cosa guarda questo, perché no, se no sarei andato da mio fratello domani mattina e me l'avrei fatto portare, capito, il salvatore. No, anche dai cinesi. Sì, lo so, tu lo so. Quando gli scoppia la scoppia in mano, vado, me lo prendo un salvatore, almeno no, non sto lì e mi prendo anche lo stagno e non sto lì a perdere tempo, capito? Ma già, io ce ne ho uno, l'ho provato l'altro giorno, ho fatto una saldatura e è andato bene. C'è il mio rincorriere, forse che dovessi essere aperto uno che ha la spina a due cuse, lui se dovesse campare a tre è fuori legge, è a due. L'ho attaccato, come l'ho attaccato, però ormai l'ho messo a scaldare, sotto la porta saldatore, l'ho messo a scaldare, con le avune, un casino, subito abbiamo spento tutto, vabbè, ha staccato anche il contattore, perché deve essere in corto. Io ho combinato un raio. E vai a comprare. Se no vada bene il turbo. Mele, pele. Grande. Vuoi comprare? No, io non compro niente, non compriamo niente. Noi qua dobbiamo fare il spettacolo. Tu comprare quello. No. Ho detto che i cinesi fanno male le cose perché ci vedono poco, perché hanno gli occhi chiusi. E poi ho detto, aprite gli occhi cinesi. Tanto, ma guarda, mi ha fatto pisciare la risata, con lui cazzo, ma la ragazza sua, cazzo. E chi siamo che ve la dare da un di cazzo, sì. E' quello, cazzo. A Giumaldo già va a cazzo l'ambulanza, cazzo. Chiedo che ve la visitate, che sua, sua. Un altro, voi. Cazzo. Tanto c'era uno, Giuseppe era seduto, e quello lì era in piedi. E lui aveva la sessantezza di Giuseppe seduto, Maria che era abusato, che lui è andato a metà, lo che era in piedi. Sono a letto. Attacca a Revi Giuseppe, non lo filmavi più. Beh, signori, io vi auguro una buonanotte, dai, che domani sono a Rucucco. Ciao, buonanotte Giuseppe, buonanotte Cattegiani, ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo, buonanotte, buon sabato per domani, avanti Giuseppe. Ciao, buonanotte, buon trabacco per domani e ci sentiamo delle prossime, dai. Il 13 che c'è il Carlefano di nuovo, 3 agosto. A che ora è? Sono alle 7. Allora noi ci apriamo il primo posto. E a Puccio del Bisa. No, non penso che ci sia questa fiumana che l'hanno già fatto il Caberfane. Ci conservano gli stessi. Se carrozzoni, forse le aggiungono qualche di un altro. Vabbè, ma tu sei libero il treno? Mercoledì è. Stai lavorando. Io vabbè, tanto che c'è tanto, non c'è problema. 3 mercoledì. Vabbè. Comunque, se potevi, ci ha fatto troppo cremare le risate. Chi c'è, Salvatore? No, non c'è più nessuno. No, facciamo che ci fosse Salvatore di ricordo, come si chiama? Qua di Sassari. Guardava. No, non c'è sabato, non è entrato stasera. Sabatone no, sabato. Sì, a Tocco Pugno. Eh? Pugno. No, Antonello, però di Ussi. Lì è cosa di Ussi, ho capito. L'ho sentita stasera, verso le 8:30 era sulle 10 e c'era tutta quella greppa. Eh? Antonello Baracuda. Ecco, la persona là, poi gli ha detto di verticale, cosa gli ha detto a Claudio, per quella questione, che già ci mettevano d'accordo tutti e due, capito? Dobbiamo preoccuparci. No, sono cose che a me interessano. Gappa, non voglio sapere nulla, non mi interessa nulla di quello che fanno loro. Quando me ne frega a me, non ha fatto proprio nulla, tanto so già chi c'è quella collezione là, e allora manco c'entro, non ero neanche nome attivo perché non me ne fosse più cazzo, poi basta, non ci vuole manco entrare in quella società. Ah, io ho a me, vabbè, io voglio sapere io prima chi c'è, poi vediamo. Se è una cosa ben fatta mi piacerebbe farlo, perché io sento, mi piace la radio, mi piace utilizzarla in tanti modi e non tenerla solo per discutere così. No, è buono anche per quello, perché a me mi fa compagnia, mi rilassa, mi fa, però mi piace portare avanti anche un certo tipo di discorso, se si può fare. Cioè, perché stai facendo il nome, Croce? Vabbè, no. Che chiudo là, rientro a casa e ne guardo un po' di televisione e domani vediamo un po' cosa cazzo decide di fare. Perché qua sono troppo giù di corda e tutto quanto. Non so cosa cazzo pensare, cosa devo fare. Adesso ha detto che il coso, il collega di giù, diciamo, se no, al quadrato no. Aspetta, non facciamo una festa, questo qua salendo sulle scale, è scivolato e si è rotto il femore, la gamba e un braccio. Dunque, vedi? Cose fanzoni secondo me, non ti vuoi mai abbattere, io te lo dico chiaramente, no niente, che fa così a me non mi dà nessuna fiducia. Giuseppe? Sì? Claudio, perché stai facendo il mio nome, Croce? Croce, Giuseppe, perché stai facendo il mio nome, Croce, dimmi. Niente, no, non c'entri tu niente per quella questione. Beh, non mi cercare, Giuseppe, che io non ho niente a che fare. Sto preoccupare, no, è nulla di grave. Più verancia, va? A più verancia? La Grazie. No, no. Grazie. E di cosa? Cioè, sto respirando in un modo strano. No, No, sono scoglionato già, lo sai, una persona quando è di quei questi problemi, lo sai, no? Come può ragionare, capito? Lo so, mi dispiace, infatti esistono ancora persone così miserabili. Lo so, purtroppo. Io qua, già, lo dico la verità, no, non sono lasciato fare. Se fare quello che mi sento di fare, io aspetto, li do sino a venerdì, poi procedo come devo procedere, poi no, non devo sprecare due telefonate, si interessano adesso, domani o dopo, vedo l'avvocato in tribunale, l'avvocatessa, e gliele parlo, poi gli darà lì tutte quante le decisioni. Quello che mi dice lei, faccio, punto e basta. E l'ho telefonato anche stasera a lei, ha detto, Antonio aspetta prima di fare questa storia qua, aspetta per te, cosa ti dice? Ah, le mandiamo una bella lettera di cosa, gli mando una lettera, se lui entro questi giorni, non ti dà, entro lunedì o martedì, non ti dai i soldi, allora andiamo in via legale. Io cosa ci avessi fatto? Ecco, abbiamo fatto, io l'ho telefonato, no? Stasera, all'avvocatessa, al sorso. Volevo scenderci di persona, ma ero sempre a benzina e no, non ce l'ho fatta. Se non ci scendevo io di personalmente al sorso. E gli ho telefonato, allora, tanto lei, basta così. Allora, questo qua è il mio principale, è un avvocato, ma cosa c'entra? Non ce ne frega niente, è un datore di lavoro come tutti quanti, lui le giornate le ha lavorate, sì, allora te le deve tutte pagare, dall'ultimo, dal primo all'ultimo centesimo. È giusto che sia così, non è che vede frate di là, diventa sbagliato. Giustamente no. Allora. Vabbè, dai. Ci sentiamo. Ah, Giuseppe, non te la prendere, gli esseri risolvi, non te la prenderà male. No, non mi abbiglio male, anzi, guarda. Già, arrivato a un certo punto. Non me ne frega più un cazzo di nessuno, punto, chiudo, chi vuole, hai capito, se vuole andare a correre con me, rimaniamo nella nostra frequenza, punto, e basta, dove dunque, non mi ha fatto più un cazzo, sono fatto cazzo a vendermi tutti i baracchini, tutti e due, gli do un prezzo tracciato, e così, non mi odoro più, punto, e basta. Per quale motivo? No, Luigi, ma guarda, perché me ne voglio stare più tranquillo, capito, no? Troppi casini, che questo è del palazzo, che questo è da pianto, che vanno molto, non cazzo, entro nel televisore, e cazzo, e ci stanno lamentando, hai capito? Ma guarda che non sono problemi, io ho detto, se si sente la mia voce nell'apparato, nelle televisioni, è un difetto vostro, non mio. Tu con quanti voti stai uscendo? Con 5 watt? Io sto uscendo con 5 watt. E allora cosa vuoi? Saranno loro che ci avevano installato il televisore, sai che si tirano 3? Penso di sì. Secondo me ragione, se dal momento che lui stava modulando, noi lo vedevamo bene. Adesso che modula lui, mi disturba, così ragionavano per me, capito? Poi già aveva giocato a Giammar, anche la Francia, quindi ce ne fu. Ma il fatto che loro hanno un'antenna del cazzo e quelle dei televisori dell'anno 1900 brucia, dunque che cazzo vogliono, a me non ho capito, anche dice che disturbo, anche se sono qua in macchina, gli entro nel televisore qua in macchina. Ecco, ma lo sanno che c'è il baracchino, tu vedi? tu mi hai detto che mi avevi rubato la che cazzo non vedo un'altra età in macchina. Vabbè in macchina sì. Ma a casa no? A casa non vista che c'è l'antenna delle cose della canna pesca che dice che secondo è anche quella. Ma per me forse state confondendo che c'era quello di Pronte che c'ha quell'antenna grande là che lui si mette a parlare la notte, io non lo so se entra quello lì. No, ma non devi fare così perché poi crei problemi. Devi dire solo che non sei tu e basta, che basta verificarlo, eccetera, cercare gli altri. Non c'è mai quella persona lì, è difficile che c'è. Non lo so qua, già, non lo so. Grazie. Ciao, ci sentiamo, sta tranquillo. Tranquillo io, non c'è problema. Tu se ti dai dici che ti disturba, lo lasci solo in macchina, a casa non è buono, è basso. Hai risolto il problema, ti sposti da lì, quando moduli, non moduli più, devi entrare in quel posto che ti ho detto. Vabbè, adesso hai che sono scelta benzina. Somme c'era andato là a modulare, capito? Appagato. Ciao, buonanotte, dai. Spengo tutto, ma è tornando, dai. Buonanotte, ciao. Che non sta avventando l'impresa da sempre Sersurino, che si è entrato di colpo quando non me l'aspettavo, mi è assordato. Sono assordato? E c'ho le cuffie in campo. Ma questa che mi ha fatto il volume? Va così. E già va meglio. Mi ha fatto di colpo questo gioco, sto sembrando. Una volta mi è successo un giorno che sono là a cambiarmi la macchina, e c'era, visto città mercato, nell'angolo c'è quello che vende le macchine. Esatto, lì ho visto che c'erano le Astra e volevo chiedere quanto costava. Ho detto che una aveva pochi chilometri e cose, la stavo guardando e non mi sono intenzionato a prendere la panchina di quelle aziendali. C'aveva le pari 15.000 o 20.000 chilometri, una cosa del genere. Viene, si asciuga la gola, comincia a tossire, a crepare quello che continuava a parlare della macchina, non mi offrivo un bicchiere d'acqua, non riuscivo manco qua. Stavo crepando, gli occhi infuriati, mi sono alzato, me ne sono andato e l'ho lasciato parlando come l'hanno lasciato, sono guardato pure del città mercato e mi sono comprato l'acqua, ma stavo crepando, gli occhi cazzo infuriati a me. Ma mi si è asciugata la gola, non so se ti è mai successo, ma a me mi succede spesso, lo faccio anche a mamma, questa cosa qua, che ti si asciuga la gola, te l'ho colpito se ti si asciuga la gola. Te la vedi brutta, lo sai. Sembra che non riesci più a respirare, ti fa un effetto strano, ti si intrigiscono tutti i muscoli, ti senti proprio lo stomaco che si intrigisce, i muscoli. Vabbè, ma cosa, è un effetto un po' strano, senti anche un po' di dolore, come tu si sente un po' di dolore all'interno. Lo facciamo anche a mia madre, forse deve essere una cosa congenita, Bevi un po' l'acqua ti passa tutto, comunque non è che sia niente di grave. Ma tu è chiuso? Antonio sì. Antonio sì, vero che ci sei? Stava facendo la legge di buco. No, non c'è, no, ma avrebbe risposto. Ma ecco che chiudeva, chiudeva. C'è questo affare qua che cazzo, quando ti viene, questo qua parlando della macchina, e parlando della macchina è restato, che adesso ti vede così, che c'è gribelli, io fai un bicchiere d'acqua, una cosa, come te mio. Scende a guadagnare e batte e come te la fai vedere la giocata non mi sono più bisogno della gatta e mi sono uscito pure. Cosa può essere? A volte pensi che non sia nulla, cosa? se poi magari qualche allergia, qualche cosa così. Solitamente lo fanno le allergie che ti irritano e ti fanno stare utile. E tu pensa, mia moglie è allergica alla palettaria. Sarebbe la bugigurosa, quella che si usava a fare i gravi da piccoli, si mettevamo attaccate alle magliette. Quella lì che è attaccata ai muri in città e cose. Poi quello la fa impazzire, gli faccio gli occhi di fuori, proprio rossi, si fanno. E un anno ho fatto i vaccini, ma la voce avanti, l'ho fatto un ematoma nel braccio, mamma no. Questo ematoma per passarli ho dovuto passare di 8.000, ma per un bel tempo me l'ha assorbito un pochino, e poi sono passati anni proprio per farli uscire tutto quanto. Infatti non ne ha più fatto vaccini, c'è cosa li faccio a fare, tanto. Salutisco lo stesso, quando la vedo cerco di allontanarmi e basta. Gli occhi ne le fa uscire, quella pianta lì è micidiale per lì. Io conosco una persona che è allergica al limone addirittura, soprattutto all'albero. Mamma la polvere, stamattina come si alzava cominciava a stare utile, l'allergia alla polvere aveva. Che ti si gonfia. Che Candidevano snicci, boh. Io gli ho detto, infatti, mi sembra passato, detto, adesso dice c'è una nuova legge e bisogna pagare il ticket. Non ho fottuto adesso, salva vita o no? Dimmi tu, boh. Vabbè, io non sono atto per bisticciare, però ho detto che sembra giusto che uno che non lavori magari ed è diabetico non possa prendere i medicinali perché deve pagare il ticket. Boh, una cosa assurda, eh. Aspetta, però, già, forse tu vai quella giunta lì, perché tu che il Triatec, che è l'originale, prova a chiedere il sostituto. Le altre ho preso tutti i sostituti, il nuovo fonolo, mettono fonolo, sono sostituti, sono sostitutivi i medicinali che è. Il Triatec, no, il Triatec l'ho preso originale. Perché c'hai l'aggiunta, perché anch'io siccome c'è l'esperta che ho preso, chiedo quello lì, che è l'originale, e poi ho l'aggiunta. Ma se prendo invece quello che non, quello sostitutivo, no? Beh, me l'avrebbe dovuto proporre loro, ho visto, considerato che stavo brontolando, magari che se prende questo lo paga. Invece non mi hanno detto niente. Sì, molti non si direi che dovrebbero dirlo, ma non te lo dico. Ha capito, signorini. E comunque, stanno facendo delle leggi che non sono giuste per niente. Adesso grazie per voi, vi salgo, se mi sarà contento Pierpaolo, che deve venire in zona ZTL. Sono contento io, ehi, guarda, io per me me la fai la sai a me, già. Per me, guarda, il lavoro mio è già terminato. Paga. Vabbè, insomma, crea non vedi problemi a chi lavora, diciamo la verità. Sì, che ho problemi a chi lavora, ma soprattutto anche loro come qua, qua hanno già protestato. L'Unione del Commerciante hanno già protestato. Guarda, a me sinceramente sto andando per così, perché se no sinceramente non me ne frega niente, sai che come ti ho detto di andare bene. Paga, paga, ma lo so, ma lo so. Non ne hai più voce, già? No, perché non vede più casa, poi i risultati ci sono e quindi non me ne frega niente di continuare nemmeno, perciò se vado, se non vado ero matesso. E vabbè, tu lo stai facendo per Antonio, per accompagnare Antonio, là. Ehi, allora, se no per me, la puntassa a me. No, ma comunque, guarda, questa cosa della zona del TRTL, hanno già protestato e stanno già dicendo che non va bene, perché soprattutto anche nelle merci, c'erano, quando è, venerdì forse mi pare, la controrisposta di questi commercianti dice che non va bene, che prima bisogna valutare gli impatti, che era già stato fatto di essere chiusi un paio di zii, oppure un paio le hanno riaperte, perché non andavano bene, bloccavano i impatti, quindi non c'era dietro la quale, dai. Vabbè, avessero chiuso solo il centro storico, sarei stato anche d'accordo. Concessa per, solo per gli abitanti e basta. Ma che tu mi chiudi le vie, che percorrono tutti, si può dire che mettono per andare in uffici le macchine e cose, tu mi chiudi quelle vie lì, è esagerato. Io dico che così non fa altro che favorire sempre precarietà, perché lo sappiamo com'è la gente, se non c'è la macchina sotto è completamente inutile, dice per andare lì allora me ne vado a precarietà, che c'è il parcheggio, c'è tutto, a gratis sicuro. E vabbè, da un lato anche in certi casi li capisco, perché se va Massaia va a fare la spesa con 4-5 buste, allora che si deve anche chiusarsi a caricare le macchine. Ma infatti, questo che lo devo capire, ma anche gente che per esempio, che ne so, lascia la macchina in piazza Fiume, non so esattamente dove la mette, adesso non me ricordo. Vabbè, dice qualche mossa politica sotto sempre ed esclusivamente quello per fare incrementare certe zone e chiudere altre, è normale. Ciao, ciao per favore. Ciao, ciao.